9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, siamo a marzo, perché io ieri poi ho detto che eravamo al 6 di febbraio, ma no, siamo al 7 di marzo, quindi la mia colpevolezza nel non tenere conto ipnoticamente del tempo che passa si deve anche naturalmente al brano con cui iniziamo e terminiamo ogni giorno di End of Doors. Sta andando avanti la consultazione, ma io invito tutti quanti ancora fino a venerdì, tutta questa settimana noi terremo aperta la consultazione. Ohimè, e devo dirvi che è in vantaggio, come potete controllare sul sito www.radio24.it, anche qui io vi ho sempre ripetuto, bisogna fare www.radio24.ilsole24ore.com, però grazie al cielo ci venite automaticamente reindirizzati, quindi basta andare su www.radio24.it e automaticamente l'indirizzo si autocompleta. Potete controllare lì i risultati del sondaggio. Se pensate che l'euro problema, la tenuta dell'euro debito e dell'euro area sia alle nostre spalle, che lo spread scenda, che tutto va bene, allora dovete votare per levare di End of Doors. Però fino a che ci sono giornate sui mercati finanziari come la botta clamorosa di ieri, e lo dico senza nessuna esultanza, e io continuo a rimanere di questa idea. Tanto per essere chiari, prima di andare al punto del giorno, il punto del giorno è partire dalla no di British Gas, che si ritira dall'impianto del rigassificatore per il quale aveva chiesto del quale aveva chiesto l'apertura e speso 250 milioni di euro, l'aveva chiesta nel 2001, da 11 anni. Partiamo dal caso di British Gas, che manda quel paese l'Italia, e ha ragione secondo me, per rifare un punto che non è solo TAV ma è sulle oltre 330 opere pubbliche, infrastrutture energetiche, rigassificatori, inceneritori, centrali elettriche, reti ad alta tensione, che nel nostro paese sono bloccate da anni e anni, pensate, sono oltre 330. E partiremo dal caso di Brindisi, perché c'è da fare una riflessione complessiva su questo paese in cui tutti credono di essere depositari della verità ultima, per dire no, no, no, tutti sono depositari di una via altero civiltaria rispetto a queste opere di cui c'è bisogno, visto il ritardo delle infrastrutture, tutti si abbarbicano ai tralicci, tutti sono convinti di poter far saltare i tempi delle procedure, di fare le impugnature amministrative, di essere depositari del verbo, della civiltà radicata, mentre tutti gli altri sarebbero le giacche blu che naturalmente vogliono levare le montagne sacre agli indiani nativi americani. Ecco, questa bella rappresentazione che ci autofaremo del blocco italiano, che manda tutti gli investitori internazionali a dire a un certo punto: cara Italia, allora te le fai tu da sole, stai nella tua bagna e vai a picco, perché questo è quello che succede tutte le volte che casi come quelli di Brindisi si ripetono. Alcune rapide flash dai giornali europei, come sempre. Allora, la Grecia è naturalmente ciò che fa impaurire i mercati, che ha determinato il problema di ieri. Andate sul Financial Times, trovate i termini della minaccia greca nel caso in cui non si arrivi al 90% del PSI, della partecipazione privata agli swap a lungo termine dei titoli greci. Il 90% sembra effettivamente non alla portata. Secondo Katemerini, il giornale greco, già ci sono dei no di importanti fondi pensione. È uscita ieri sera un aggiornamento dell'IIF, l'Istituto Internazionale che coordina i grandi bulldozer privati, e questo aggiornamento del costo del default disordinato greco, cioè il caso che non venga coordinato con un sì dei bondholder privati, e di una stima di costi di un trilione di euro, che significa 1.000 miliardi. Di euro. E il Frankfurter Allgemein, la Frankfurter Allgemeine Zeitung ci informa del calo dei profitti dovuto al rischio dell'eurosistema, del calo dei profitti di Bundesbank, sono attesi per oggi i profitti per il 2011 e la diminuzione dei profitti del Bundesbank spiega la durezza con cui Bundesbank ha posto il problema della sostenibilità di lungo periodo di ciò che invece in Italia e nei paesi euro deboli piace molto, cioè le aste di liquidità straordinaria a 3 anni a bassi collaterali voluti da Mario Draghi, e la differenza che ha fatto in questi mesi calare lo spread, che ha dato l'impressione ai mercati che ci fosse finalmente un'istituzione europea capace di grandi dotazioni finanziarie per risolvere il problema da una parte della tenuta del sistema bancario e dall'altra di chi comprava i titoli pubblici alle aste, ma è esattamente quello che a Berlino non piace, perché compra troppo tempo, per così dire, e consente oltretutto ai paesi con divario di produttività di illudersi di non andare avanti energicamente con le riforme. A questo si aggiunge che il grande bagno di liquidità alle banche fa loro bene, abbiamo parlato ieri col presidente dell'ABI Mussari, ma contemporaneamente spinge i regolatori bancari a non approfittare delle ricapitalizzazioni obbligate come quelle in corso nel nostro paese per una severa ma necessaria ristrutturazione del comparto bancario, che nel nostro paese per esempio è gravato da ricchissimi eccessi di personale che continuano a essere pagati ovviamente dai clienti, e contemporaneamente a non mettere mano a riforme della governance bancaria e del capitale dei tipi di soci presenti nelle banche. Quindi per questo i tedeschi, che oltretutto diminuiscono i profitti di Bundesbank, andranno avanti nella critica a Mario Draghi, che invece esalta tanto i paesi eurodeboli. Ecco, io mi fermo a questo punto della critica tedesca nei confronti di Mario Draghi, perché credo che dovremmo fare una trasmissione ad hoc su questo nei prossimi giorni. Financial Times Deutschland e Handelsblatt stamattina approfondiscono l'argomento sui rischi delle aste di liquidità della BCE. A dire la verità, entrambi i quotidiani tedeschi affermano che fino a questo momento la critica Bundesbank non sembra avere molto seguito in Europa. Allora, andiamo al punto invece della trasmissione odierna dell'Italia bloccata, delle tante opere pubbliche che non si riesce a portare avanti tra continue impugnative amministrative, revisioni dei progetti, oneri compensativi chiesti dalle comunità locali, una tutela verso i terzi che nel nostro ordinamento per esempio è aperta ex ante durante il procedimento autorizzativo e anche dopo, a differenza di quello che capita in quasi tutti gli ordinamenti dove c'è un limite alla tutela ex ante degli interessi verso terzi e poi la cosa si blocca. Allora, il governo Monti ha deciso di adottare, alla luce di anni e anni di ripetuti insuccessi nel tentativo di infrastrutturare il paese per tutto questo ordine di problemi di un ordinamento amministrativo, di un regime delle impugnative, di un ordinamento civile e penale che rende impossibile rispettare tempi e quindi non rende possibile parametrare davvero il costo di un investimento, rende impossibile oltretutto la redditività di un investimento, nel senso di stabilire ex ante chi paga davvero l'investimento, chi lo ripaga in termini di apporto generale di capitale pubblico a lungo ritorno, oppure nel caso di capitale privato, sempre più necessario perché la finanza pubblica italiana è esausta, stabilire con certezza entro quanti anni e quali tariffe o prezzi amministrati remuneranno il capitale. Con tutto questo viene pregiudicato in Italia, e il governo di fronte a tutto questo ha deciso di raccogliere una proposta alla quale avevo personalmente lavorato anch'io, che avevamo elaborato nella fondazione Res Publica, che è una fondazione tipo bipartisan che lavora ai colli di bottiglia del sistema pubblico italiano sulle migliori pratiche europee, e questa fondazione, la fondazione Res Publica, ha lavorato insieme alla ad Astrid, che è quella presieduta da Franco Bassanini, nonché a Italia Decide, quella presieduta da Luciano Violante. Insieme avevamo confezionato un pacchetto di diverse decine di proposte proprio per sbloccare le infrastrutture italiane. Il governo ha deciso di adottare questa strada, in sintesi la via francese del débat public, che è una procedura per la consultazione dei territori e della tutela dei terzi in un procedimento di realizzazione di infrastrutture che ha tempi certi, un regime di impugnative che esclude assolutamente l'impugnativa ricorrente nel periodo successivo all'ok definitivo al progetto. progetto e mette dei limiti anche alle varianti di progetto e quindi al proliferare dei costi, tutto quello che bisogna fare in Italia. Ma questo non impedisce che naturalmente noi ereditiamo una situazione nella quale sono oltre 330 in tutta Italia le opere bloccate da anni, anni e anni. Si tratta di opere classicamente collegate all'energia, sono rigassificatori, impianti di produzione termoelettrica con il gas, impianti idroelettrici, reti ad alta tensione di Terna bloccate in Friuli. Ecco, gli esempi sono infiniti. Pensate che ci sono 46 opere in queste condizioni bloccate in Lombardia, 42 in Toscana, 40 in Veneto, 31 in Emilia Romagna, 15 in Campania, 19 nel Lazio, il totale è 331. E oggi partiamo dall'ennesimo caso eclatante che c'è stato in questi giorni. Lo avete letto forse alcuni di voi, mi auguro di sì, e che vi siate sdegnati come noi nel leggerlo sul giornale di ieri, il Sole 24 Ore. In particolare l'annuncio era British Gas lascia Brindisi, un progetto di un rigassificatore nel quale British Gas ha speso in 11 anni 250 milioni di euro, collegato alla realizzazione di un rigassificatore, cioè di un terminale che serve a fare il cambio di fase per migliorare l'approvvigionamento e diminuire l'impatto della dipendenza strategica del gas italiano dall'Algeria e dalla Russia. Negli anni, oltre agli unici due rigassificatori che servono al cambio di fase, cioè arriva sulle navi gasiere il gas che è stato ridotto alla fase liquida, ritorna a essere gas attraverso il rigassificatore immesso nella rete. Ecco, negli anni sono stati previsti in Italia una dozzina di impianti di rigassificazione, e di questi due soli sono in funzione, quello di Panigaglia e quello di vicino a Trieste, e degli altri 10 diciamo è una lunga storia di no, problemi, impugnative, inchieste della magistratura, eccetera eccetera, e quindi sia quello di Gioia Tauro, sia quello di Priolo in provincia di Siracusa, sia quello di Zaule a Trieste, quello di Brindisi di cui ci occupiamo oggi, quello di Porto Empedocle, quello di Livorno. Ecco, è tutto un fiorire di ritardi, per cui in effetti in esercizio ce ne sono solo due. E ieri l'amministratore delegato nuovo dall'inizio di febbraio in Italia di British Gas ha detto: cari signori, noi non ne possiamo più, vi salutiamo e vedete voi che cosa potete fare di questo paese. E con noi l'amministratore delegato di British Gas in Italia, io lo saluto e lo ringrazio con molto rammarico di questa posizione che abbiamo letto, si chiama Luca Manzella, buongiorno, e lo prego di dirci se c'è un qualche margine, per così dire, per riconsiderare questo annuncio, oppure se davvero si chiude tutto, si licenzia la gente. Cara Italia, ti saluto. Buongiorno dottor Giannino. Sì, allora, effettivamente devo dire che l'intervista ieri ha avuto un grosso eco, ma d'altronde ovviamente è stata una decisione sofferta, perché dopo 11 anni su cui una società lavora su un progetto, chiaramente prendere certo tipo di decisioni è sempre una decisione sofferta. Quello che abbiamo deciso di fare in questo momento è assolutamente di chiudere tutte le attività di sviluppo locali del progetto, quindi abbiamo chiuso l'ufficio di Brindisi, abbiamo dovuto mettere insomma in mobilità le persone che hanno lavorato per anni su questo progetto, il che ovviamente è stato un grosso dispiacere, perché chiaramente erano dei colleghi, e abbiamo deciso di fermare qualsiasi tipo di attività di sviluppo locale. Da un certo punto di vista possiamo dire che il progetto localmente è congelato. Chiaramente stiamo riaccentrando le attività residue di progetto su Milano, e come abbiamo detto ieri, quello che stiamo facendo è riconsiderare dalle fondamenta il progetto, nel senso, ormai l'iter autorizzativo per noi era concluso, tutto il lavoro diciamo di analisi tecnico-ambientale era stato fatto, è stato fatto, sostanzialmente aspettiamo una decisione finale relativamente allo sblocco dell'autorizzazione che c'era ed è stata sospesa, e a questo punto aspettiamo questa decisione finale, ma chiaramente le attività sono ferme, come ho detto prima, come avevo detto ieri, abbiamo bisogno di un gesto concreto, chiaramente quando ci verrà, se verrà, faremo la valutazione in quel momento. In questo momento tutte le attività su Brindisi sono ferme. A corredo della decisione assunta dall'azienda c'era un paragone che da solo fa riflettere: avviato nell'iter lo stesso 2001 per un impianto del tutto analogo in Galles, in una zona anche essa ad alto impatto possibile ambientale, nella quale quindi bisognava assumere tutte le cautele in ordine alla realizzazione di un impianto come un rigassificatore. L'impianto in Galles, dall'inizio della richiesta autorizzativa alla messa in funzione, passati 5 anni, da noi più di 11 anni e siamo ancora al punto zero. Perché? Qual è la differenza di fondo che rendono all'esperienza della vostra azienda gli investimenti infrastrutturali in Italia totalmente su un altro orizzonte temporale di possibilità di realizzazione e con tutt'altri oneri aggiuntivi rispetto alla media degli altri paesi in cui operate? Allora, esatto, l'esempio è calzante, ne abbiamo parlato ieri. Quello che colpisce è il fatto che noi siamo partiti con due progetti gemelli esattamente negli stessi anni, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, e il progetto inglese è praticamente ormai attivo dal 2009, entra nel suo quarto anno di attività, mentre purtroppo in Italia stiamo ancora discutendo sull'autorizzazione finale del progetto stesso. Come diceva lei, anche il progetto inglese nel Galles, che è una bellissima regione da un punto di vista naturalistico, è stato contestato, criticato, discusso, ma si è arrivato comunque a prendere delle decisioni. Queste decisioni sono state anche discusse legalmente, ma tutti gli iter sono durati, compreso l'iter legale, quindi i passaggi attraverso le corti inglesi, sono durati non più di 2 anni. Noi sostanzialmente in 2-3 anni l'iter amministrativo e anche l'iter di controllo dal punto di vista della magistratura inglese è stato completato. In Italia invece purtroppo non è così, nel senso tutti gli iter sono lunghissimi e vengono continuamente riaperti. Faccio presente che noi avevamo completato nel 2003 un primo iter autorizzativo secondo la legge italiana. C'è stata una procedura di infrazione verso l'Italia, specifico non verso la BG, per quella legge. Siamo venuti incontro al governo italiano e abbiamo sostanzialmente, che ci ha sospeso l'autorizzazione, abbiamo deciso volontariamente di riaprire un nuovo procedimento autorizzativo anche per risolvere un problema italiano. L'abbiamo sostanzialmente nel 2008, questo procedimento di infrazione è stato archiviato anche grazie alla volontà di BG sostanzialmente di riaprire il procedimento autorizzativo. Abbiamo completato per la seconda volta tutta la parte tecnica del procedimento autorizzativo. Nel 2010 sostanzialmente è stata emessa una nuova VIA, però tra il 2010 e il 2012 siamo ancora in attesa degli ultimi atti formali. Nel frattempo, considerando che il progetto è stato rivisto profondamente, è venuto incontro anche a molte di quelle che potevano essere delle osservazioni degli enti locali, ma questo non è bastato, quindi anche rispetto alla nuova via a maggio dovremo per esempio discutere un nuovo ricorso su elementi stessi della nuova via. Chiaramente tutto questo allungarsi, protrarsi, ovviamente fa lievitare i costi del progetto, ma più che altro dà una totale incertezza sul ritorno del progetto stesso, e questo chiaramente non avviene in tutti i paesi. Allora, quanta occupazione e il complesso degli investimenti annunciati per l'impianto a quanto ammontavano? Allora, che ci sono due fasi. Durante la costruzione, che è una costruzione che dura tra i 4 e i 5 anni, perché gli impianti sono complessi e ovviamente sono impianti rilevanti, avremmo impiegato circa 1 migliaio di persone l'anno. Una volta realizzata l'opera, intorno all'opera stessa, quindi parlo di gente che avrebbe lavorato o nell'impianto o intorno all'impianto, si parlava di oltre 200 persone. A questo poi va aggiunto tutto l'indotto, quindi praticamente tutte le attività portuali connesse al carico scarico delle navi metaniere, tutte le attività di manutenzione. In più avevamo lanciato un progetto supportato dalle università locali e dalle locali associazioni industriali per lo sviluppo della cosiddetta industria del freddo, perché il terminal avrebbe prodotto frigorie che potrebbero essere state utilizzate per lo sviluppo ovviamente di industrie associate al freddo. Avrebbe creato insomma un indotto molto rilevante. Tutto questo ovviamente in questo momento è sospeso. Da un punto di vista dell'investimento finanziario, chiaramente quando siamo partiti l'investimento ovviamente era nell'ordine di 500 milioni di euro. Adesso ovviamente è lievitato, il costo è ulteriormente lievitato anche alla luce di ulteriori richieste fatte nella via che noi abbiamo accolto, e quindi sicuramente parliamo di una cifra ben superiore ai 500 milioni di euro, quindi è comunque un investimento rilevante. Il fatto che noi non abbiamo ancora certezza adesso anche rispetto a un investimento di questa entità, dopo aver già speso 250 milioni, chiaramente non depone a favore del progetto. Ora, ricordo tutti che ai tempi del governo Prodi, quindi non esattamente ieri, il premier britannico all'epoca, Tony Blair, appunto non esattamente ieri, sollevò ufficialmente il caso nell'ambito delle relazioni politiche al più alto livello, invitando l'Italia a sbloccare l'iter dell'impianto di British Gas a Brindisi, e invece niente. Non è mancato nella storia, lo dico per completezza di informazione, perché alcuni di voi pensano che, come al solito, io pensi solo a voler parlare a favore delle aziende e degli impianti, e francamente aggiungo che io sono dell'idea che esiste un grandissimo problema di infrastrutturazione adattata al nostro paese, ne sono davvero convinto. Se voi siete convinti invece che parlare questo, sollevare questo tema, sia semplicemente essere a favore del cieco capitale, dello sfruttamento delle risorse naturali e del cemento, io vi dico con grande sincerità che due cose. Primo, mi piacerebbe parlare con voi e tentare di capire in base a che cosa lo dite, visto che tonnellate di letteratura accumulata su uno dei motivi storici del ritardo e della bassa crescita italiana è questo. Secondo, vi inviterei ad andarci piano con gli insulti. Anche oggi ci sono parecchi che dicono che è tutto fatto contro gli eroici militanti della Val di Susa, eccetera eccetera. Io non, di eroismo vedo poco nella forma altero civiltaria, in questa mistica identitaria che dopo anni e anni, vedete, Val di Susa, io sono piemontese, punto numero uno, ma non vuol dire niente. Secondo, all'Istituto Bruno Leoni abbiamo più volte organizzato incontri, ne potete trovare ancora conferma in un articolo che sul Chicago Blog che dirigo, andatelo a guardare ogni tanto invece di insultare, www.chicago-blog.it, troverete che ancora non più tardi dell'altro ieri regolarmente pubblichiamo le analisi costo-beneficio che non ci convincono dell'alta velocità riservata al traffico, non ad alta marginalità, cioè quella dei passeggeri, ma del servizio merci rispetto alle percentuali di saturazione di quella linea. Quindi oltretutto sbagliate, perché io sono tra quelli che tecnicamente non ero molto convinto del costo-beneficio della TAV, numeri alla mano. Detto questo, la TAV è diventata una priorità rispetto al fatto che altrimenti l'Italia, i governi italiani, tutti i governi italiani di qualunque colore, e questo compreso, ma oramai da molti anni, da più di 15 anni, ritengono che sia una priorità per l'Italia che il corridoio numero 5 passi sotto le Alpi e non sopra, regalando traffico commerciale a svizzeri e tedeschi. Di fronte a questa priorità, il far saltare in maniera mistico-identitaria ogni tempo e ogni procedura di consultazione, violare il diritto ad aprire i cantieri e a fare le prospezioni, tacciare tutti di essere appunto le famigerate giacche blu dell'esercito americano che scacciano i nativi americani dai loro monti sacri, è una cosa che io capisco, perché è l'unico rifugio nel quale può andare chi contesta la logica del mercato e un pubblico che se ne fa garante. Perché sapete come funziona questa logica? Funziona esattamente con tempi certi. Questa è la logica del mercato. I tempi certi sono quelli della tecnica dello sconto del tempo e delle risorse limitate che vanno applicate a delle finalità. E perché queste risorse limitate, finanziarie, organizzative, capitale umano, intangible, brevetti, macchinari, possano essere impiegati a dei fini da realizzare, bisogna che il tempo sia certo, perché è quello il meccanismo attraverso il quale ti fai il conto della remunerazione dei fattori che stai usando. Non a caso la logica altero-civiltaria è quella della apparente illogicità, dell'irregolarità dei tempi, che però è perfettamente logica dal loro punto di vista. Solo facendo saltare i tempi, solo abbarbicandosi ai cantieri, solo salendo sui tralicci, solo mettendosi a col proprio corpo umano, e diventa la mistica dell'automartirologio, per così dire. Così si fa dilatare il tempo, e alla fine è l'unica logica contro la logica del mercato. Il tempo che, dilatandosi, fa saltare il meccanismo dello sconto delle risorse limitate da applicare a fini da realizzare. Quindi non è una questione che si risolve più sui costi-benefici. Come in tutte le vicende come quelle di Brindisi, la mia impressione è che siamo ben al di là rispetto a una equa procedura di ascolto dei territori locali, di una ordinata procedura di messa a matrice degli oneri compensativi, degli interventi di salvaguardia ambientale, di tutto ciò che in un qualunque paese civile avviene per opera di questo tipo. O pensate forse che in Gran Bretagna massacrino l'ambiente, torturino ed espropriano i proprietari di terre locali, eccetera. O pensate che lo stesso avvenga in Francia o in Germania. Ecco, no, in Italia la questione, dopo un po' di tempo, esaurisce tutti i termini di un logico confronto e diventa, da molti anni è così, nel caso della TAV è assolutamente così, l'attrito tra chi è convinto che solo facendo saltare il tempo si fa saltare mercato e pubblico che se ne fa garante con delle procedure in nome di un'altra civiltà. Ecco, quando la questione diventa l'altra civiltà, cioè il sentimento, il cuore, la mistica, l'identità contrapposta a un qualunque tipo di ragione, perché può essere la ragione dell'impresa che vuol fare l'impianto, ma anche la ragione dell'ordinamento pubblico che deve contemplare tutti i diritti, non c'è più possibilità di incontrarsi. Come vedete, io non li considero affatto terroristi, cosa c'è. Dico che la presenza delle forme altero-civiltarie è diventata la questione che impone a tutti il loro tempo, la loro logica, in nome di un diritto preordinato, perché è la sovraordinazione etica. Capisci? È quella che fa dire con l'occhio sbarrato ai leader della Notav che noi non possiamo capire, noi siamo ciechi servi del mercato, solo loro che tutelano la terra, il ritorno alla terra, possono essere considerati alfieri di quest'etica. Questa risposta, quella che tentiamo di avanzare con casi come questo di Brindisi, è diversa. Di civiltà che in questi ultimi anni, tra l'altro, in tutto il mondo, sì, proprio la globalizzazione che molti additano come esempio di tutti i nostri problemi, è quella che ha fatto uscire fuori dalla fame e dal livello di meno di un dollaro al giorno più centinaia di milioni di persone che in tutto il resto della storia dell'umanità. Chi continua a non vedere questo e a pensare che la mistica dei monti sacri dei nativi americani sia l'unico rifugio nel passato, io posso rispettarlo. Ciò malgrado, vorrei vivere in un paese in cui le procedure fossero certe, le leggi fossero rispettate, come in tutti gli altri paesi, e noi recuperassimo il nostro gap, altrimenti è inutile che ci illudiamo. L'altra civiltà a quale ci portano potrà sembrarvi superiore eticamente, ma è una civiltà fatta di regresso, di culto del valore del proprio narcisismo nello specchio, di un'interiorità che non per questo è superiore. Io la combatto questa forma, con tutte le forme della logica e del rispetto della legge di cui sono capace, ma anche con tutto lo sdegno per come le istituzioni italiane assistono a tutti i livelli e a tutti i gradi al moltiplicarsi di casi come questi di Brindisi. Vorrei un capo dello Stato che andasse a Brindisi da British Gas, va bene? Altro che se lo vorrei. E lo vorrei capace di pronunciare parole dure nei confronti di qualunque amministratore locale che ha fatto le impugnative. Lo vorrei anche capace di una riflessione sul fatto che anche in questo caso c'è stata un'inchiesta di una procura sulle mazzette, eccetera, eccetera. Non ci siamo negati nulla a Brindisi come in tutti gli altri 331 casi aperti in Italia. Ecco, io vorrei un capo dello Stato, un Presidente del Consiglio capace di dire: italiani, finché continuiamo così, tutto il mondo ha tutte le sacrosante ragioni per ridere di noi e per dirci: Italia, non sarà mai capace di levarti dai talloni, stai nella tua melma e per favore non lamentarti. Eccoci tornati in studio. Molti ascoltatori protestano, non si fanno le trasmissioni a senso unico, invece si fanno e si sentono tutte le voci, ma con una tesi precisa. Se volete la difesa dell'altro mercatismo, dell'altra città, ci avete tutto il mainstream dell'informazione italiana. Andate a sentirvi Santoro, Floris, tutto quello che volete voi. Io ho una scelta di campo rispetto a un paese che crede di cullarsi nella propria superiorità etica perché dice no a tutto. Mi dispiace, la sensibilità che sto urticando in voi, che dicono che bisogna che mi caccino il predicatore da Radio 24, è esattamente il fine che mi propongo. Quello di farvi capire che c'è da qualche parte qualcuno in questo paese che difende la logica per la quale investimenti, una volta che sono approvati e in ordine con l'impatto ambientale, come avviene in tutti gli altri paesi, perché non credo che siamo l'unico paese al mondo in cui invece le imprese concentrano il peggio di sé perché vogliono devastare l'ambiente e fare morire la gente tra benefiche esalazioni, o se siete convinto che questo avviene solo in Italia siete dei matti, evidentemente, che avete problemi di psicanalisi per quello che mi riguarda. Ecco, e che con tutta la ruvidezza del caso, di fronte a casi come Brindisi, ci interroghi del fatto che siamo un paese ridicolo, ridicolo, che merita solo di essere additato al disonore del mondo e che per questo cresce di meno, anche, chiaro? Il fatto che io riesca a urticarvi mi riempie veramente di soddisfazione, perché significa che riesco a ottenere il nostro risultato. Ora, abbiamo in questa seconda parte della trasmissione però chi non è d'accordo, chi non è stato d'accordo sull'impianto, e io ovviamente li ho invitati, perché non è che esiste il bianco e il nero. L'effetto complessivo è qualche cosa che sicuramente mi lascia molto perplesso. E abbiamo con noi, per esempio, Stefano Ciafani, buongiorno. Sì, buongiorno, Ciafani. Ciafani, mi perdoni per l'accento, e Michele di Schiena, buongiorno. Buongiorno. Allora, comincerei con Michele di Schiena per sentire le ragioni che ci sono state negli anni di un'opposizione così, che ha ottenuto poi alla fine il risultato che ha ottenuto con ieri col no di British Gas sul rigassificatore. Nel suo caso, dal suo punto di vista, da un punto di vista particolare, dica qual è, come e perché siamo arrivati a 11 anni di questo. Guardi, tanto per incominciare, i punti di vista sono tutti particolari, tranne quelli che vengono resi da decisioni specialmente se giudiziarie. Quindi il mio è un particolare, come sono particolari gli altri. Scusi la precisazione, ma dovevo farla. Voglio dire che quanto ho sentito dire dal momento del collegamento, ecco, è una qualche cosa sulla quale possiamo essere tutti d'accordo. E bisogna informarsi però sulla situazione di Brindisi, perché, e non è un luogo comune, ha caratteri del tutto particolari, non c'entrano niente, i divieti, i ritardi, i laccioli, eccetera. Qui c'è una decisione che fu presa in solitudine, in un colloquio privato, 12-13 anni fa, da Berlusconi, al di fuori di ogni procedura, di ogni garanzia prevista dall'ordinamento, in un colloquio con Tony Blair. Poi, questo peccato, per così dire, originale, si è riprodotto nel corso della procedura autorizzativa con comportamenti, irregolarità che sono stati rilevati non solo in sede amministrativa e ministeriale, perché c'è un provvedimento di sospensione amministrativa del provvedimento, non era stata fatta la valutazione di impatto ambientale, quella valutazione è stata fatta poi postuma, ha dato un certo esito, un parere favorevole, ma segnato da una marea di contraddizioni impugnate anche dalla società costruttrice. Quindi, scusi, lei ha detto all'inizio che non c'era la via, poi ce ne sono state due e ce n'è una. Ce n'è stata una sola. E ce n'è una che comunque, per quanto valide, è impugnata. Quindi il problema è esattamente quello delle impugnative. Sì, sì, ma quindi il problema è delle impugnative. Non è che mi può dire che siccome il cattivo Tony Blair con l'affarista Berlusconi. Non dico il cattivo Tony Blair. Ah, ecco. Io dico che le irregolarità sono state rilevate, se mi fa finire, no? Sono state rilevate dall'autorità ministeriale nostra, no? Dal ministero, che ha sospeso in via amministrativa la procedura e ha ordinato una via postuma e anche la consultazione delle popolazioni interessate che non era stata fatta. Ora, il responso è stato sì positivo, ma segnato da 50 prescrizioni pesantissime, certo, alcune delle quali impugnate dalla stessa British Gas. Sì, sì, è certo, è chiaro. E ci sono dei procedimenti in corso. Ma di Schiena, ma tutto questo ha a che fare con un paese che consente la tutela verso terzi aperta in qualunque ordine del procedimento? Scusi, virgola, scusi, è questa un'anomalia oppure no? Scusi un attimo. Prego, me la scuso, ma mi risponda però. Contemporaneamente, scusi un attimo. Questa è la logica, che c'è sempre ben altro. Perfetto. Scusi un attimo, contemporaneamente a questa sospensione amministrativa, il cui esito della via è stata impugnata dalla stessa British Gas, c'è un processo penale, oggi in fase dibattimentale, nel corso del quale la sequestrata colmata, il luogo dove a mare doveva essere costruito il rigassificatore, per il quale il PM ha chiesto la confisca. Quindi siamo di fronte a provvedimenti giudiziari e amministrativi che hanno rilevato le irregolarità. Quindi parlare genericamente di questa cosa, ideologicamente. No, ideologicamente. Ma chi è che lo fa ideologicamente? Perdoni, io sto dicendo che il complesso di queste ipertutele ordinamentali ci porta a non poter realizzare quali un'opera. Lei mi dice che la mia ideologia, grazie di Schiena, tele. La ringrazio, lei ha avuto, è la miglior conferma del fatto che chi tenta di fare logica comparata sulle procedure italiane, si becca dell'amico dei mazzettari e dei tangentisti, come lei ha appena fatto. Io la ringrazio, però ne ho le scatole un po' piene di beccarmi queste accuse. Non è vero che noi abbiamo parlato di altro, abbiamo parlato esattamente della somma di tutti i tipi di contestazione che lei eleva, dopodiché ci si divide in due, si può tentare serenamente di dire vogliamo fare un punto a capo e cambiarle queste tutele ordinamentali così molteplici, così a tempi aperti, oppure è il caso di dire ogni volta per ognuna di queste 330 storie di no alle infrastrutture italiane non si può fare altrimenti, intanto andiamo a fondo? Questa è la mia serenissima domanda, basta che però non mi si dica che sono il servo dei mazzettari, perché se siamo al punto di dire lei dimentica di dire che qui c'è una confisca del giudice penale per delle mazzette pagate, quindi lei è al loro servizio, io vi ringrazio e vi saluto, ma questo lo dite veramente a qualcun altro. Stefano Sciafani, dal suo punto di vista, perché il no al rigassificatore invece è una bella cosa e perché hanno avuto ragione tutti coloro che si sono opposti? Ma guardi, diciamo, la vicenda di Brindisi è molto tortuosa, l'avete insomma raccontata voi, ci sono state le ragioni della British Gas, ci sono state le ragioni dei cittadini che hanno portato poi a un'evoluzione della vicenda che è passata per un'inchiesta della magistratura, un procedimento penale presso il Tribunale di Brindisi, una procedura di infrazione dell'Europa per la violazione sulla direttiva sulla via. E il procedimento autorizzatorio è stato prima chiuso e poi riaperto, insomma è una vicenda molto molto complicata. British Gas è in parte vittima, come è stata raccontata, ma in parte anche carnefice rispetto a questa vicenda, perché insomma è vero che l'Italia non è riuscita a gestire una situazione di grande conflitto che sul territorio c'è da tanti anni, che mette insieme la politica di centrodestra e la politica di centrosinistra, perché tutte le amministrazioni che si sono succedute, in chi più chi meno, ha contrastato questo progetto. Questo la ringrazio di averlo detto, perché questo avevo dimenticato di dirlo, perché è vero che spesso sui giornali, diciamo, l'alfiere della polemica e della resistenza, delle obiezioni a British Gas è finito per essere Nichi Vendola, ma è altrettanto vero, e la ringrazio perché questo non l'avevamo toccato come elemento, che anche le amministrazioni di centrodestra si sono unite poi alla logica dell'impugnativa e delle contestazioni. Sì, c'è stato, diciamo, in questo una comunione di intenti da parte di tutte i tre livelli, comune, provincia e regione, con i due schieramenti che governano, che hanno governato in questi anni in quel territorio. Questa vicenda la vicenda dei rigassificatori è un po' abbastanza emblematica, insomma io da Brindisi vorrei un attimo astrarmi per fare un ragionamento sui rigassificatori e sul gas, se mi è possibile. Sì, come no, perché certo. Insomma noi abbiamo in questo paese oggi 16 richieste, sì, di progetti di termine di rigassificazione a terra o a mare, che sono oggettivamente sono tutti impianti molto grandi, perché sono tutti impianti mediamente da 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che sono, insomma, sono, diciamo, noi ne abbiamo due in funzione, cioè due soli. Sì, noi ne abbiamo uno diciamo grande da 8 miliardi di metri cubi a largo del delta del Po, e ce n'è uno piccolino a Panigaglia, esatto, nel golfo di La Spezia, che è da 3-4 miliardi di metri cubi, uno a Porto, esatto, Venere e l'altro a Porto Tolso. Esatto, e poi ci sono 16 progetti da circa 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Allora, su questa vicenda dei rigassificatori, che è una cosa molto emblematica, sì, allora l'Italia deve decidere dove vuole andare a parare, perché se l'Italia vuole diventare un hub del gas per, sì, l'Europa, giusto, e allora ci possono stare 16 progetti, ma se l'Italia non decide che cosa vuole diventare, e questo non l'hanno fatto né i governi di centrosinistra né i governi di centrodestra a livello nazionale, non si potrà mai decidere qual è, ad esempio, il numero di rigassificatori che servono al nostro paese per riconvertire parte del sistema elettrico e industriale italiano. Allora Ciafani, devo interrompere, perché questo punto che noi abbiamo sfiorato, ma la trasmissione di lunedì, richiamando la necessità del piano energetico nazionale, lei ha perfettamente ragione, sono completamente d'accordo su questo. Secondo me, visto il mix di dipendenza, il mix energetico che abbiamo, voglio dire, e il ratio di dipendenza dall'estero della nostra energia, è una priorità nazionale che deve essere contemplata, messa al centro del piano energetico nazionale e dell'agenda internazionale del governo, tentare di fare dell'Italia l'hub mediterraneo sud europeo. quindi più rigassificatori, ma ci vuole poi una rete del gas davvero europea. Quindi lei in questo ha perfettamente ragione. Sta di fatto che poi alla fine noi sempre due operativi ne abbiamo e tutto il resto degli altri è bloccato, chi per un problema di impugnativa di un tipo, chi per ritardi di un altro, chi per ostacoli sulla via, chi perché l'amministrazione locale dicono di no, e quindi ricadiamo in questo problema. La versione di Oscar. Eccoci tornati in studio. Beh, effetto raggiunto oggi direi dalla quantità di reazioni durissime sul fatto che farei pena, predicatore fallito, tu e le tue imprese che ci importano a fondo, e l'Italia che non cresce si deve a chi ragiona il nome dell'impresa e così via. Sono contento che ci sia tanto pubblico che la pensa diversamente, ma ho ottenuto il mio risultato. Il mio risultato è quello, ogni tanto, di alzare la voce per farvi notare come il mainstream, che vi abitua a dare ragione a chi dice di no, che vi abitua a pensare che siano loro i depositari di una superiore etica, talvolta anche chi invece si oppone è capace di urlare e di farvi notare che il resto del mondo è capace di rispettare le norme per il rispetto delle tutele delle comunità locali come dell'ambiente, ma è ben lontano da questa caricatura dell'impotenza e dell'autosprofondamento nel fango che è diventata l'Italia, che tanto vi piace a voi cultori superiori dell'etica dei martiri, del martirologio di Luca Abbà, e lo dico con rispetto nei confronti di Luca Abbà, dei suoi amici, dei suoi parenti. Il martirologio di Luca Abbà è il paese che vuole appendersi al nulla. Questa è la mia idea. Alessandro Belk, stiamo, ohimè, quasi finendo, ma Alessandro Belk è tra coloro che lavorano nell'osservatorio permanente NIMBY, Not in My Backyard, che ci ha abituato negli ultimi anni a fare un rendiconto puntuale delle tante, troppe opere pubbliche che stanno in condizioni come Brindisi. Il risultato delle vostre azioni negli anni è di nutrire speranza o di vedere un paese che va sempre più giù su questo? Ma sì, buongiorno. Ma in realtà a vedere i dati degli ultimi anni, diciamo che abbiamo visto dati peggiorativi. Siamo partiti nel 2005 riscontrando qualcosa circa di 190 contestazioni territoriali a impianti, infrastrutture, opere viarie, ferroviarie, eccetera, eccetera, e siamo arrivati oggi a 331 diciamo contestazioni o comunque situazioni di questo genere. Quindi in questo senso sembra che ci sia, diciamo, un senso peggiorativo. Ma vogliamo sperare che l'ultima idea del governo, che fra l'altro insomma anche noi nel nostro piccolo promuoviamo dal lontano 2004, e cioè dire quello di copiare in qualche modo quelle che sono delle norme. E a cominciare dal debat pubblico francese. Radio a domani. 24. La passione si sente.